ABS Media Day. Quanta gente piena di problemi, pensa quel che fai e non a ieri. Facile dire, possibile. ABS Media Day. Ricordare quei momenti, devo ti senti, so che devi fare, non stare ad ascoltare, dire basta. Negarmi i tuoi perché, basta. Il mio problema sai qual è, basta. Che vorrei stare insieme a te. ABS Media Demo. Forse una svolta lo farà passare. Un modo che non sempre potranno aiutare. Per lasciarci un modo e dimenticare. Ma tutto ciò che faccio mi porta a pensare a quei momenti. ABS Media Demo. Ciò che devi fare, non stare ad ascoltare, dire basta. Non posso credere più a te, basta. E non spiegarmi tu il perché, basta. ABS Media Demo. Beh, sai qual è, basta. Che vorrei stare insieme a te. ABS Media Demo.